attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasima. Adesso ascolto.